Aspetta, Lillo, butta la pasta, è pronta. Lillo, butta la pasta. Passa a fare un massimo. Oh là là. 9-10, radio 5, con picchi positivi a 15. Quindi è meglio, ancora non è alta, non lo so passare tutto. No, già va bene. 9-10, con picchi positivi a 15, va benissimo. Capito? Quanto l'hai sollevata? Quanto è? 3 metri? Sì, va bene, non ti basta la voglia. Secondo me se va a 6 metri è un po', capito, pericoloso, perché altro deve stare spaventato quando, perché pesa, già lo sai. Sì, qualcosa è migliorato, la verità. Vabbè, devi capire che siamo anche di fronte, quindi va benissimo. E a me come mi ascolti? No, sei uguale. Io sto usando quella radio, antenna, figurati. Hai fatto bene, io invece oggi stamattina ho abbiato un po' di freddo, un pochettino di freddo, preso, cazzo, via Roma, cazzo, era un vento, via Roma, via Levante, arrivo qui, boh, vento non ce n'era più, cazzo. Ha fatto vento, sto succedendo, non è via Roma, sono sceso dal centro storico perché sono andato al CAF, capito? Poi siamo saliti a piedi con Giovanna, mia sorella, ha cominciato questo vento in via Levante, a casa, ma vento, freddo, poi sono entrato dentro questo bar, cazzo, c'era il condizionatore d'aria manetta, aria calda, mi stavo anche sentendo male, figurati. Allora ha aperto la porta e ho cominciato a migliorare, cazzo, io non stavo svenendo, cazzo, gira. Sì, stamattina c'era il rischio più che altro, in via Roma, perché scendevano le gocce fini fini, ma erano ghiacciate. Allora, c'ho questo cazzo di coso da ieri, cazzo, sto crepando, il collo, cazzo, mamma mia, una cosa allucinante. Mi sono messo il moment, quello, la crema, mi ha calmato per un'ora e mezzo, poi ha ricominciato. Ehi, ha fatto un'altra prova, già non c'è problema, già sono qua. Sicuro. Chi è avanti? Senatore Mascherini, The Factory, provate a andare su 27.075 per vedere se ti sentivo. Ehi, io ti ascolto, 9.5, qua Sassari, radio 5. Sei fortissimo anche qui, io sono zona canica. Sì, zona canica, io sono qua a Carbonazzi, di fronte al Conti. Eh beh, già lo credo, sei di fronte, in linea d'aria, da qua vedo tutto carico, vero, per Danieda, quindi figurati, sono in alto qua. Buono, ho capito. Poco fa ho fatto un questo con Alighiero, si sentiva bene, però era un po' disturbato, invece tu sei perfettamente chiaro, appunto, che sei in linea d'aria quasi vicino. Che altro perché mi è capitato che lo stesso parlando in linea d'aria così fosse molto QRM? Sì, QRM ce l'hai sempre in 27, specialmente la mattina che c'è proprio di propagazione, adesso a quest'ora ce n'è di meno, e quindi si capisce un po' di chi tiro di più, ma quando c'è preparazione senti americani, russi e di tutto di più. Zappa, cioè così fa. Purtroppo è così. Ci dobbiamo tenere la propagazione. E qua verme anche. Mi ricordi il tuo nominativo? Il mio nominativo è Alessio. Alessio da Cattari. Da molto fai radiatore? Da 1974. Capito. Quindi fai parte della vecchia guardia. Sì, già ne conosco di CB, anzi ne ho conosciuto di CB a voglia. Qua c'è parecchi, anni 80, 70, a voglia, 2000, poi è cominciato la cosa a cambiare, cioè è nato i telefoni cellulari, i computer, quindi la maggior parte sono spariti. Esatto, sì. È così. Adesso siamo pochi proprio. Ma siamo 5-6, non di più, che parliamo ogni tanto. Dimmi, caro Daniele. Marco Rubio, aspetta un secondo che stava parlando Daniele da Izzi. Prova Daniele, che ti do il segnale. 9:20 sì adesso, quasi 9:20. C'è Marco Aurelio, quanto ho capito io, come si chiama. Vediamo se lo senti. Marco Aurelio, da dove stiamo? Ah, da Canica mi ha detto poco fa. Esatto, dopo penso che lui non l'abbia sentito, però Daniele, lo senti a Marco Aurelio? No, va bene Daniele, allora mi sistemati tutto bene. Ok, intanto cambia antenna, e poi le funzioni. Avanti Marco Aurelio. No, non è di Alghero, no, è di Itiri. Sì, di Itiri, ma sei iscritto nel gruppo Vivani di Alghero, che vi ho così? Non posso dire che gruppo sia lui, non lo so. No, non mi sono spiegato, è nel gruppo WhatsApp, è un gruppo WhatsApp dove mandano le chat, scrivono così. Siccome avevo letto poco fa Daniele, che era sui 27.075, volevo chiedere se era lui quello che stava sui 27.075. Nel gruppo che chatta con Vanni di Alghero e gli altri ragazzi. Ah, non posso dire se lui fa parte di quella chat lì. Quando rientra al limite glielo chiedi. La verità io non ci sono mai entrato in quel gruppo di quella chat lì. Cioè, su Facebook mi sono iscritto a cosa al sito delle rematture, perché mi interessano piccato gli apparecchi che vendono, capito? E basta, poi se c'è un sito dove parlano di CB, questo non te lo so dire perché non ci sono mai entrato. No, non è un sito, è un gruppo su WhatsApp che si sono messi, sì, c'era mio cugino, c'era entrato, lì sento appunto parlare di radio, di antenne, di tecnologie da C. CD, capito? Giusto quello. Ah, ho capito, un gruppo su WhatsApp. Quando rientra glielo chiediamo se lo fa parte del gruppo su WhatsApp. Sì, quel gruppo è un gruppo di Alghero, che loro presentano sempre sul canale 15, sì, 27.135, anche se è un po' disturbato, però passando per dire F si riesce a sentire bene. Poco fa infatti ho sentito il mio cugino, c'è un buon impianto, però c'è una buona antenna, però l'ho sentito proprio bene. Ho capito. Buono sapersi. Vabbè, quelli di CB di Alghero sono da bene che non li sento, sono da parecchio, la verità. Una volta parlavo su 14, quindi i CB di Alghero sentivo spesso, c'era una bella ruota lì, parlavano di una decina di persone. Su 15, Sassari invece era su 14, poi avevamo il canale 2, 10, 5, e adesso poi c'era il gruppo che parlava su nei canali alti, eccetera, eccetera, capito? Ho capito, quindi stai usando una Ringo, stai usando, mamma mia che antenna brutta quella. Scusa, non ti ho copiato. Ho detto se stai usando una Ringo come antenna, ho detto, è un'antenna brutta. Ah sì, sì, no, mi erano regalate, perché io quando ho iniziato ho preso il barettino quello da 40 canali e poi ci andava appena video, ci andava anche bene. Però già non si vive già da allora. Poi ho preso la nuova radio della IAEG, però appunto non sento molto quella radio, l'ho comprata la nuova, la devo solo piazzare, devo trovare solo qualcuno che me la piazzi sul tetto e poi dovrei essere a posto, anche qui l'amplificatore da 300 non so, non lo sto neanche usando. Ho capito, capito. Solo un giorno non ho perso più antenne sopra il tetto io. Prima le installavo le antenne di barattina sopra il tetto. Qua a Sassari adesso non le installo più. Ormai ho 60 anni e non ho voglia di calare da un tetto e non ne uso di per il funerale. Sistemata fissandola sul comigno del camino, che è abbastanza grosso e largo, però l'altra è molto più grande, devo fissarla al muro dello staff, se no ci sei Daniele. Ho capito, ciao Luca, ben sentito Daniele, c'era due minuti fa. E chi c'è? Con chi stai parlando? Non lo sento. In realtà non lo senti, ho sempre io da qui da Canica, Marco Aurelio si chiama. E buono, arriva qua, non so se mi ha ascoltato, ma arriva qua. Marco Aurelio, senti a Luca Belmonte. Senti Luca, fortissimo, più anche di Daniele, di oltre i 920, immaginati, ma lo sento chiarissimo, proprio senza nessun disturbo. Pompuro, arriva segnale 7, radio quasi non ne ha. Non so se lui mi ascolta, ma non arriva bassissimo qua, o correme un po' alto. Ti ascolta, arrivi 9:20 Fuscia. Buonasera a tutti su. Ciao Marco, ben sentito, tu già lo senti a Marco Aurelio, sì. Sì, ciao Antonello, ciao Luca, ciao, mi pare Marco Aurelio, sì, arriva bene qua di radio, il segnale non è molto forte ma è capibilissimo. Fallo venire avanti Antonello. Avanti Marco Aurelio, si sentì a Marco Condor. E come sono sia delle migliori, come stava dicendo l'amico. A te ti sento proprio perfettamente, proprio forte al 3920. Allora, sì, qua sei Santiago 7, Santiago 7 radio buona, radio 3 anche 4, non ci occorrem più di tanto. Luca, vai, riprendi. Luca è sparito. Chi c'era? Anche Daniele qua. Ehi, è entrato Daniele 10 minuti fa, poi si era entrato a Tirino, ma poi già entrava dopo. Ehi, ma stavate facendo prove tipo? Ah, mi ha chiamato per vedere come stava arrivando da Haiti, dico la Mantova. Quello è, ha messo la Mantova. Lui aveva la Game Master. È interessante vedere, peccato che se n'è andato. Io ero in cucina poco fa, devo fare una commissione. Vabbè, quando rientrerà vedremo il segnale, ok? Dillo lì. Corpo, Daniele. Vai, Daniele. Aspetta, in due. Aspetta. Guarda, poi sta arrivando. 1, 2, 3, 4, 5. Ora si frolla. Segnale è sempre lo stesso. Segnale 8. Siamo lì. Anche qua siamo lì. Diciamo un'otto abbondante. Modulato è 8,5. E siamo bene o male a livelli della Game Master, Daniele. Siamo lì. Secondo me è la zona, lì è troppo in un fosso lì, la tavola avrebbe sollevata un bel po', a uscire da lì, magari da Pomponi arriva bene, ma da noi Marco che siamo, cioè lui è in basso, non fa, capito, poi io l'ascolto dai, l'ascolto a voglia. Però Luca, a parte il segnale, io lo ricevo in modo eccellente, il QRM qua è basso oggi, è tipo 2-3, arriva bene sia Daniele sia l'amico da... non ho capito bene se è Taniga con la T o Caniga con la C, vediamo, vai Marco Aurelio. Caniga con la C, C di Cagliari, sono... Io lo copio bene. Sì, è Daniele, dopo. Loro sente perfettamente. E sono io magari che ho l'antenna che non serve, quella lingua non riesco a trasmettere bene. La lingua va bene solo a Piazzara, sai dove? Vicino ai maiali, aveva tirato i fumi, e quando i maiali non c'hanno acqua, piove sempre di piove, perché queste sono antenne che assorbono acqua quelle, figurati, si riempiono l'acqua, non funzionano più quando piove. Quando piove funziona ancora di meno. Allora, io ho avuto la 60enna, l'ultima della LEM, l'ultima ringo della LEM, quella fatta più male. E per disperazione l'ho dovuta togliere dopo un anno. Me, Antonello è testimone, era presente in entrambe le installazioni. E a Porto Torres ero nel QRM, non mi copiavano. E quando ho messo la 5 ottavi anche andante, la Energy, mi hanno copiato la stessa stazione che a Porto Torres non mi copiava, con la 5 ottavi mi copiava. E ho anche abbassato il palo a dirla tutta, perché prima era 5,50 il palo e adesso l'ho abbassato a 3,70 m, però ho migliorato tantissimo, quindi la Ringo, perlomeno il mio modello, lavorava veramente male. E in più si stava staccando, si stava sfilando lo stilo dal radiatore da tutto il resto dell'antenna, era pericolosa. Anzi ti dirò che oggi sarà per la giornata brutta, non so, non c'è propagazione, ho un QRM insolitamente basso, nell'ordine di 2 e anche meno, stranamente. Antonè, da te com'è? QRM 8 c'ho io, giusto. Il cavolo, 8. No, qua è stranamente basso il QRM. Infatti ho detto, ma se ancora l'antenna, sì, perché col vento non sa mai, un giorno se la porta via il vento, la trovo, non dico la Sinara, casomai al sud la trovo l'antenna, perché viene da lì il vento, la trovo a Florinas l'antenna, capito? Non sai che 140, anzi soltanto peggio, già te lo ricordi, qua avremmo sempre 9 ci avremmo. Mi venivano le crisi epilettiche quando utilizzavo i 80. Qua avremmo 9 tutti i giorni, mattina e sera, non c'era un giorno che non c'era qua avremmo 9. Se superavo il 9 ti sentivo, se no non sentivo più un accidente. Invece almeno con 140 riesco a sentire le persone. Eia, vediamo se Luca riprende. Eia, sono qua, no, io lo ascolto un po' basso, ho un po' di QRM, non so perché, boh. Però già lo sento, dai. Io immagino che mi ascolta bene, boh. Ehi, sai cos'è? C'è troppa roba elettrica rispetto agli anni 80. Abbiamo in aria un sacco di robaccia elettrica, alimentatori switching di cellulari, che ne so, pompe di calore, televisori che come li attacchi, come li accendi ti disturbano tutte le radio di casa, per carità. Negli anni 80 non c'era quella Mondexa in aria, Luca, la sera e la notte era, ti dico, c'era un silenzio assoluto, non avevi neanche bisogno di squelch. Ho capito, scusa Marco, cos'è? No, ripetere tutto no, ho detto che c'è un bel di Mondexa elettrica in aria, roba di alimentatori switching, televisori che fanno QRM, prima non c'era questa roba elettrica che disturba il baracchino, capisci? Ah, sì, sicuramente. C'ho QRM, aspetta, ce l'ho, sì. Infatti è eccessivo, non è normale. Ogni tanto qua c'è una pompa di calore che quando attacca senti un po' di QRM, ma è poco, poco, poco e niente. Cioè, lo senti, ma arriva fino a 5, poi stacca però. Avanti, l'amico di Caniga. Ecco, posso migliorare ulteriormente il segnale, mi darei conferma, vedi un po', 1, 2, 3. Ah, ok, va bene. Sai cos'è? Però io, cioè se tu mi arrivi tipo Santiago 7, è strano che io arrivi 9,20 anche da con pochi watt, con i watt normali, quindi magari con lo smitter è un po' sovra, molto generoso, molto molto troppo generoso, ecco perché ti sembra di essere in un abisso di segnale molto basso rispetto agli altri, capito? Cioè rispetto a come li ricevi tu o come li vedi allo smitter. Va bene, io lascio la parola a Antonello. Antonello, devo staccare a breve, se non subito, e riprendi tu. Già va bene, non sono uscito stamattina. E stamattina? Sì, ero a Piazza dei Segni, ero anche ad Eurospin, in via Carlo Felice. T'ho pensato, detto, vediamo se scorgo la capoccia di Pomponio tra i clienti. Ah no, stamattina sono andato alla CRA con Giovanna a fare la spesa, sono andato lì al CAF per fare il modello ISE e al ritorno che trovavo il suo vento in via Roma freddo, e poi stava pioviginando, pioggia fine ma leggermente congelata. Poi lì ho detto a Giovanna, andiamo direttamente alla CRA e ti fai la spesa lì, ho detto poi prendiamo la 25 e saliamo. Capito? Mi sono preso solo una birra e basta, un aperone per pranzo e boh. Ma è caduto. Aspetta che sono qua, eh. Antonello, dimmi se c'è saturazione. 1, 2, 3, 4, 5. ho messo il mic in a metà, c'è il guadagno del microfono a metà, dai, se no spara troppo. No, no, sta troppo, non ce l'è per niente, sei perfetto. Certo, sono abbovibili, sono. Mi sono misurato 36,9, quasi 37 sono. C'ho un collo, non tu ci collo, ma c'ho proprio la cervicale che mi sta distruggendo adesso. Non me ne parlare, Antoni. Comunque sì, stamattina già a Piazzale Sini c'era un vento che non ti dico, vabbè anche tu l'hai sentito, io c'ero bello tappato, però un pochino, un po' l'ho sentito, poi eravamo seduti all'aperto, ho portato mamma un po' a pascolare, capito? E poi a fare la spesa. Avanti l'amico Marco Aurelio. Allora, Marco da questa parte, poi Antonello Pomponio. Luca, vediamo se c'è ancora, se vuoi riprendere, io devo staccare, che devo fare roba online, Antone. Ah, cazzo, già va bene. Io ho un televisore, Marco, Smart TV della Samsung, 43 pollici, volevo guardare biglietti fixi. Mi ha detto cosa, mi ripeto, dice che ci vuole questa pennetta che c'è su Amazon, mi ha installato la pennetta, ti paghi l'abbonamento in pratica e vedi Netflix, gli ho detto. Prego? Stai parlando di un aggiornamento firmware, probabilmente. Avanti il break. Danilo da questa parte. Ciao Danilo, ben entrato, ben sentito, compagnia di Antonello Pomponio, Marco Aurelio da Caniga, Luca dal Monte, chi altri c'era? Daniele, non so se è rientrato. Antonello, vai per Danilo. Ehi, ciao Danilo, ben sentito, e ben entrato, avanti, riprenditela. Sì, poco fa Luca mi ha mandato un messaggio, mi ha detto che eravate, che era sul 10, ho sentito anche a Daniele che era sul 10. E basta, è a Marco Redia, l'ho sentito anche. Oh, sono qua Dani, mi senti? Ehi, alù. Ah, ok, da. Come facciano così Saturino? No, non lo so. Ah, un po' di crepitio sull'audio. Forse il microfono. Luca, tu cosa stai usando attualmente? Il microfono e apparato? Sì, quel Maritone. Maritone, come cazzo si chiama? L'MB4 famoso di 20 anni fa. La modulazione è splendida, Luca, è splendida, non sembra nemmeno uno ZG che certe volte gli fa quell'effetto un po' gnè, è splendida. Ora come sono? Dani. Ehi, dimmi, Lu, ora come sono? Sempre saturo? È così, non è che sia forte e forte, ma ti ascolto bene, non ti ascolto bene, però non è bella squillante. Datemi qualche minuto e arrivo, Marco, arrivo subito, riprendi tu con Danilo. Ehi, andame, dai, vai a farti quello che devi fare. E beh, Daniele, ci sei? Ti prendo quella roba là. Andave, non ti preoccupare. Cappa, Daniele non ha ripreso, ha fatto delle prove, l'avrei voluto... Ah no, l'ho sentito. Era 8,5 modulato. Vediamo se sciapizzo. Daniele, ci sei ancora all'ascolto? Niente, va bene. Signori, dai, io devo staccare. Antonello, riprendi. Quindi saluto tutti, Antonello, Luca, Danilo, Marco Aurelio, Daniele, se l'ascolto. E faccio quelletti che devo fare roba. Vai Antonello, ciao. Ehi, ciao Marco, ci sentiamo, stavi bene. Aspetta, mi sta chiamando il cane. 2 minuti, li riprendo subito. Avanti Marco Aurelio. Ciao, ti saluto anch'io. Ciao, buon proseguimento. Marco, ma dove sei? A Caniga? Ehi, sei in mezzo al QRM, un bel basso ti sento. Ok, perché io ti sento perfetto, con molto, molto, molto campo, insomma, sei silenziosissimo, cioè non c'è neanche QRM. Allora, cioè il QRM a 3-4, tu sali intorno ai 7, però il QRM te lo porti dietro e ti sento anche molto basso, però già riesco a capirti quello che dici. Capito, tutti mi stanno sentendo molto basso, invece sì, a voi vi sento tutti molto forte, tra i 7, 8, anche 9 e più 20 dopo, quindi non so perché, non so neanche cosa devo toccare, ma perché ancora questa FT 991A della IAI, non è che la conosca molto, quindi non so ancora regolarlo bene, forse è quello, non lo so, devo un po' migliorare, fatto. Ora ho attivato il filtro, il QRM l'ho disattivato, però a te ti sento sempre basso. Fai un piccolo passaggio. Eccomi, sono io che magari non so cosa fare ancora per migliorarmi in farmi ascoltare, capito? È questo, che non conosco bene questa radio. Danilo, provate in FM. In FM sicuramente sarà una telefonata. Sì, in FM io vado a bomba, senza problemi. Proviamo, dai, proviamo in FM. Proviamo in FM, anche con Alghero siamo dovuti passare in FM per sentirci bene. Ora com'è che mi senti? Meglio o peggio? Aspetta, avete parlato in due. In FM, eccoci qua. Non è molto potente, l'ho sentito. Vediamo il video se è perfetto, perché c'è almeno un rapporto segnale di numero migliore. Qua probabilmente il quadrante dovresti sentirlo meno e vediamo. Avanti Marco Aurelio. Come ti sembra? Qua si prima era buono di avere le altre parlante e spaventa anche la fossa di fondo. Vai Danilo. Sì, sì, adesso lo sento bello forte. Qua io ti posso dare tutti i watt della radio che ho in FM. In AM ti posso dare i 40, qua ti posso dare tutto quello che ho. Sì, adesso ti sento molto più forte. Riesco a sentirti chiaro e limpido, radio 5. Sì, allora qui il segnale tuo è passato da 7 a 7 e mezzo, ripeto, da 7 a 7 e mezzo, è come se la potenza l'avessi diciamo raddoppiata, però è sparito il fruscio di fondo tipico dell'AM e quindi è una cosa che abbiamo già rilevato, è notevole, però in 27 abbiamo iniziato a fare sempre in AM e non godevano in effetti i benefici della modulazione di frequenza, ma non sarà entrato un parello o l'occhio, niente, comunque bello apparecchio il 991, caspita, molto molto bello, io ho rinunciato con le meraviglie vari anni fa, ma ho tanta rapidità di fare altro, di andare avanti. Bene, la mia è un 3009, superato il 3009, normale, però mi aveva indicato che sono aiutato adesso, no? Saranno una cinquantina. Ah, aiutato sì, ma io sono con tutto quello che mi dà la radio, i 100 watt della radio sto usando, l'antenna, la Game Master autocostruita da me, e niente, il microfono sto usando l'originale della radio che è l'Icon 7000, il C7000. Basta, tutta roba bella insomma, io sono l'unico rimasto a guardare il normale, ecco così sono, io sono con i 4 watt normali, comunque ho sbagliato, non erano 50, erano 60, 6-0, no? Adesso sono 4 watt. Vediamo se la Bertolaglia mi copre ancora bene, visto che parenti di fanne, un po' di sagnare sarà troppo per forza. Comunque sono rientrato, da lì a lì decisamente meglio in FM, invece Marco Aurelio è sempre disturbato da me, lo ascolto, faccio un po' di fatica a sentirlo, sicuramente lui magari mi ascolta bene, non lo so questo, poi me lo confermerete voi, perché non riesco a tirarlo fuori bene. Avanti Marco. Aspetta che... No, qua non mi su, qua non mi su, non mi su, non c'è più niente qua non mi sotto. Capito? Ma alla fine mi dà molto, mi dà molto, però tu sei qua non mi pelle. Il contrario mio, che è estremamente non c'è qua non mi sembra anche una cosa un po' ambigua. Vabbè. No, io invece il QRM in radio lo sento, in segnale zero, manco lo muove lo smitter, proprio in segnale zero QRM, manco lo muove, invece in radio lo sento. E via, sono stato a vedere dentro il compagno, vabbè, va bene, poi fate, senti tutto quando anche le tutte le basse conviene passare a FM. E poi tanti di volte lo tiri fuori meglio. Signore, grande saluti, ciao Daniele, Luca, Marco Mario, Antonio Sorrentrato, Daniele se l'ascolto, tutti quanti. Quanto esecutivo, ciao, buona Luca. Dai, io ti saluto lo stesso, tanto Luca ho visto che ancora non ha agganciato. Dai, già ci sentiamo le prossime, ciao. Luca, ci sei? Sì, dai, sono qua, sono qua. Ma la cubica nuova è nuova. Il tradizio nuovo, la cubica è sempre la stessa. L'hai vista? Ti hai fatto caso? Ho fatto le foto. Ma ancora non l'hai vista reale? Reale no, no, sono sincero, no. È tutta un'altra cosa. Vederla da... con gli occhi è tutta un'altra musica. Sì. Comunque, come mai mi prendi così tanto forte Marco Re? A 9+20, 9.40. E invece a te ti prendo proprio a parlare, è un bel passaggio. Allora, sì, sì. Allora, ogni tanto arrivi di voce radio segnale, di segnale, arrivi a 5-6, però ogni tanto si sente un tac e vai a 9.40 senza problemi. Però quel tac non ho capito cosa è. Comunque dai, meglio sentirsi che avere il segnale. Non ti preoccupare, tanto ho visto il video che hai mandato, che hai fatto con Vanni, cazzo, gli stavi spaccando la radio. No, lì già ci arrivi bene tu, io molto meno. Perfetto, dai, già ci sentiamo. Ma io sto chiudendo, dai, io sono passato solamente perché Luca si è mai detto di entrare un attimino, ma Luca sta facendo altro in questo momento. Già ci sentiamo. Ciao a tutti, ciao. Sì, dai, io vabbè sono qua, che sto contando una pila. Quella cosa l'ho risolta, Dani, dai, li ho piazzati. Così. Va bene. No, volevo fare una prova con un po' di canica, un attimino se c'è ancora. Volevo un controllo così e poi lo diverso. Vabbè, questa non c'è più. Mi sa che è andato Marco. Altro che stava chiudendo. Andate dai Lu, quando... aspetta un attimino che guardo se ci sono gli altri, un attimino, aspetta. Guarda, fa una prova. Che prova vuoi fare? Quella mi si è abbassata adesso, Allora, aspetta Dani, allora, aspetta. Fammi abbassare un attimo. Siamo così. Così, là. Allora, vedi così che segnale ho. Così mi stai arrivando a 9.20. Ok, aspetta. Così, guarda un po'. Niente, non è cambiato niente. adesso? Ho capito qualcosa? Adesso sei fisso, fisso 920. Che cosa che succede? Ora un po', sto aumentando, ora un po'. Ma sta agganciato, che ti ho fatto? Sì, ogni tanto arrivi con picchi di 930. Che lampeggia. Però, sì, come radio sei sempre forte. Sei il numero uno come radio. Vabbè, guarda, sto giusto per il segnale, per vedere se l'ampli stava andando. No, no, già stai uscendo bello forte, Luca, anche come segnale, 9.30, senza problemi. E poi magari ci sentiamo tramite telefono e mi dici lo spostamento che fai, dai, capisciamo. Ok, dai, adesso provo a vedere se c'è qualcuno, se no ciccia. Alla prossima. Se qualcuno mandami il messaggio, mandami la frequenza. Perfetto Luca, non ti preoccupare, adesso faccio il giro veloce. Luca, ci sei? Sì, sono qua, dimmi. No, no, non c'è nessuno. Proprio zero. Se no che tu c'è un altro modo di parlare, allora sì, qualcuno già si sente oppure non fa. Ma non penso che tu c'è la radio come la mia. Quindi tu fai AM, FM e banda laterale, l'altra banda non la fai. Vai su WhatsApp, spiega. Aspetta, ti mando la foto su WhatsApp per farti capire quale banda ti sto parlando. Va bene.